Allora, in apertura una cosa brevissima, intesa a chiarire il riferimento iconografico della locandina, perché è risultato che non è da tutti conosciuto. Però vedendo lo spezzone si capirà il senso e il perché di questa scelta. Sul tavolo ci sono alcuni materiali fatti avere da Sergio e altre cose recuperate da noi, tra cui le ultimissime copie di un numero della rivista Il Ponte, che contiene un bel dossier curato da Giacomo Scotti. Se non l'avete, vi consiglio di prenderlo, perché sono proprio le ultime copie che Paolo ci ha portato questa sera appositamente per l'iniziativa. Dico ancora solo che sabato pomeriggio, probabilmente lo sapete già, però vale la pena di ripeterlo, alle 4 da Piazza 24 Maggio partirà una manifestazione in solidarietà con Alfredo Cospito contro il 41 bis e l'ergastolo ostativo. Sapete che la situazione è estrema, cercate di tenervi informati anche prima di sabato, perché è una situazione che oramai si misura di giorno in giorno, se non di ora in ora. Ecco, quel giorno è prevista anche la prima parte di un'iniziativa di due giorni sulla disabilità. Vedremo di aggiustare gli orari per permettere la partecipazione sia alla manifestazione che poi all'incontro, che inizia quel pomeriggio e poi continua il giorno dopo e la sera, sia del sabato che la domenica. Solo questo, per cui Stanley, se mandi il contributo filmato, come dicono in televisione, poi... Non faccio, forse meglio che cominci. Ma solo è una cosa brevissima, dopodiché ci sarà... Scusami, credevo che fosse... No, dopodiché invece i materiali della serata saranno illustrati, commentati, in dialogato da Sergio. Quello è il materiale più corposo, questo è soltanto proprio uno sketch d'inizio. Vai, Stanley. A Capitanarlo, l'eroe nero che ruba i ricchi per dare ai poveri? No, scusi, filologicamente quello che rubava i ricchi per dare ai poveri era Robin Hood. No, intanto Robin Hood era verde, non era nero. Dopo pare che non era manco un personaggio storico, e c'è addirittura chi sostiene che non fosse per niente italiano. Beh, veramente neanche Capitan Harlock è italiano. E allora le foibe? Cosa c'entra le foibe? Cosa sta dicendo? Ecco, la Caterina Guzzanti che interpreta Vicky di Casa Pound in 1-2-3 Stella, andato in onda una decina d'anni fa nel 2012. Questa espressione, allora le foibe, è stata poi ripresa più volte, e abbiamo voluto aprire con questo riferimento di popular culture. Bon, vai Sergio. Allora... Vabbè, stasera chiaramente spero che nessuno si aspetterà una non so, nuove rivelazioni. Parleremo di politica della memoria, che è una cosa in un certo senso più importante, e all'interno della quale poi oggi il discorso sulle foibe ha un senso. Dunque, il filmato dura 55 minuti circa. Io adesso dico alcune parole, poi magari a metà filmato lo fermiamo un attimo, ne dico altre, e poi un po' sulla conclusione. Magari io ho portato delle slide, magari qualcuna ve la faccio vedere. Cioè, lì bisogna più o meno ricordare un paio di cose, no? Cioè, finisce la guerra dopo questi tragici avvenimenti. E diciamo pure che la gente non ha più voglia cioè ha voglia solo di dimenticare, insomma. Cioè, state talmente traumatiche quelle vicende che... Poi cosa succede? Succede che nel 1948 Tito rompe con Stalin. E questo costituisce un grosso problema, nel senso che per esempio a Trieste il Partito Comunista era composto in buona percentuale, se non maggioranza, da sloveni, i quali sì, immediatamente, istintivamente si schierano con Tito, mentre il partito, seguendo poi le indicazioni del partito, no, centrale, si mette dall'altra parte. Quindi avete questa spaccatura all'interno dell'unico partito che in fin dei conti conservava una memoria della resistenza. Primo. Secondo, in Jugoslavia Tito viene preso da una specie di ossessione della, diciamo, del complotto interno, cioè ha paura che Stalin, i sovietici, li stiano sostanzialmente organizzando una specie di colpo di Stato, eccetera. E quindi inizia quel periodo che gli storici ormai chiamano del maccartismo titoista, cioè incomincia una forte repressione, una specie di, o anche di ossessione, no, del nemico interno. Ah, tu sei con Stalin, eccetera, che tra l'altro porta poi a quegli episodi drammatici degli operai di Monfalcone, i cantieri di Monfalcone, che erano andati in Jugoslavia per costruire il socialismo e si schierano con Stalin, e lui li prende e li manda in campo di concentramento a Goliotok, in quell'isola. Quindi nel 48 tutto viene stravolto, insomma, no? Cioè quella parte, se vogliamo, che conservava una memoria della resistenza e che quindi poteva benissimo inserire la questione delle foibe in un contesto storico, viene, come dire, spaccata, insomma. Quindi questo è un grosso problema. Primo. Secondo, Tito diventa il beniamino dell'Occidente. A quel punto lì tutti lo corteggiano, perché cercano appunto di staccarlo dal fronte sovietico e praticamente poi lo inseriscono all'interno del fronte della NATO. Quindi non è una cosa da nulla quello che succede nel 48. E poi la cosa si sviluppa perché la Jugoslavia diventa sempre più un paese legato all'Occidente, ma adotta al suo interno anche degli modelli, se vogliamo, occidentali, no? Inizialmente la Jugoslavia, che è una situazione drammatica dopo la guerra, riesce a risolvere in parte questi problemi con una migrazione pazzesca. Pensate, allora i jugoslavi rappresentavano la principale comunità etnica in Germania. I Fremdarbeiter in Germania erano, prima che diventassero i turchi i primi, diventano, sono i jugoslavi. Quindi, insomma, c'è uno sconvolgimento enorme che stende un velo appunto di silenzio sulle, in realtà, sulle foibe. Nessuno ne parla più, la Democrazia Cristiana non ha nessun interesse a parlarne. I partiti comunisti evidentemente nemmeno, eccetera, eccetera. Gli unici sono gli estremisti di destra, ma chi li ascolta, insomma, in questi anni? Quindi la cosa va avanti, la Jugoslavia diventa il paese dove vai fare le vacanze che costano poco, no? Tutti si dimenticano che la Jugoslavia era un paese socialista, che aveva fatto, e lui stesso emargina, butta diciamo, non è che li espelle, ma insomma emargina dal partito gran parte degli uomini della resistenza. Io adesso uno dei pochissimi ricordi personali che vi propino: nel 66 circa vado a Lubiana e incontro un gruppo di ex comandanti partigiani, per dirvi com'era questo esercito. Uno di questi a suo tempo aveva 17 anni e comandava una divisione, 2000 uomini. Lui viene ferito e viene portato, vedrete a un certo punto anche nel filmato si parla di questa città in Puglia che era a disposizione dell'esercito di Tito, insomma. Lui viene trasportato in aereo in Italia meridionale, credo a Salerno, viene curato e viene rimandato in guerriglia. Bene, sia lui che quest'altro gruppo di partigiani che avevo conosciuto, perché ero andato lì con un amico il cui padre era stato ammazzato a Dachau, erano emarginati, cioè non era che avevano cariche nel partito, ma erano anche emarginati proprio socialmente, non potevano usare la macchina, era il 66. Quindi è chiaro che c'è tutto questo lungo periodo dove non si parla più assolutamente di foibe, ne parlano i tanti fascisti, ma insomma, quindi dura moltissimo questo periodo qua. Tra l'altro, la cosa non bisogna dimenticare, che anche in Germania, se voi andavate in Germania Io sono andato lì a preparare le mie tesi di laurea nel 59. Parlavi di Auschwitz, che oggi uno dice Auschwitz, capisce cos'è. Ti guardavano così, sia per la rimozione, sia perché al processo di Norimberga non avevano messo sotto accusa il nazismo sterminatore, avevano messo sotto accusa la Germania paese aggressore. Quindi l'imputazione era la guerra d'aggressione, non era sterminio. Il primo processo sulle, diciamo sulla Shoah avviene nel 1963, sono passati quasi 20 anni. Solo allora i tedeschi prendono, diciamo, diventa un fatto pubblico. Ecco. La Shoah diventa un fatto, poi diventerà un brand, ma insomma, solo allora, quindi pensate, 20 anni dopo che è finita la guerra, la Shoah incomincia ad essere un avvenimento che diventa un elemento della coscienza pubblica. Continuano, diciamo, il periodo, Tito diventa un personaggio sempre più importante della politica internazionale, molto più importante dei politici italiani, diventa uno dei leader del movimento dei paesi non allineati. E quando lui muore nel 1980 ci sono 170 capi di Stato presenti al suo funerale, 170. C'è la Thatcher, c'è Pertini, c'è Arafat, c'è una cosa assolutamente, assolutamente incredibile. Quindi un personaggio che... Lui, tra l'altro, l'Unione Sovietica, come sapete, dopo il rapporto Khrushchev, riprende i rapporti con la Jugoslavia. No, Khrushchev va a trovarlo, si riabbracciano, quindi la Jugoslavia, diciamo, a questo punto è ben vista a Occidente, è ben vista a Oriente e ben vista all'interno dei paesi non allineati. Insomma, è un paese... Quando avviene, diciamo, il disastro? Cioè, quando è che cambia tutto? Ovviamente cambia tutto quando crolla il muro di Berlino. E 2 anni dopo incomincia la guerra in Jugoslavia. Allora, a quel punto qua, Tito diventa, diciamo, il personaggio negativo. E la storia della resistenza jugoslava contro il nazismo viene dimenticata e tornano fuori gli odi etnici tra serbi e croati, tra sloveni, eccetera, bosniaci, musulmani, e succede quella tragedia immane che è la guerra in Jugoslavia dal 1991 in poi. No? Ora, in questo periodo qua, chi è che aveva invece di usare, diciamo, questi avvenimenti in maniera puramente propagandistica o strumentale, lavorato a lungo per scoprire la verità, insomma, incominciare intanto a dare un nome ai morti, per esempio, no? Dentro le foibe. Aveva lavorato soprattutto l'Istituto di Storia della Resistenza di Trieste, che era stato fondato 3-4 anni dopo quello nazionale, fondato da Parri nel 49, nel 53, viene fondato questo istituto e viene fondato soltanto da quelli del Partito d'Azione. I comunisti non c'entrano niente, perché questo risale alla rottura che avveniva, lo vedrete, durante la resistenza. Lì c'è successo sostanzialmente che il CLN italiano ha dovuto a un certo punto scappare, perché sennò i partigiani jugoslavi li arrestavano. Quindi questo, diciamo, istituto è stato l'unico che ha iniziato uno scavo nei quegli avvenimenti drammatici di questi anni. Chi ha avuto un ruolo importante, io ho cominciato, diciamo, a lavorare con loro subito dopo la laurea, quindi erano quegli anni lì, ma chi ha dato un contributo fondamentale è stato Enzo Collotti. Cioè, Enzo Collotti l'ha fatto diventare uno dei più importanti studi. Ecco, loro pubblicavano una rivista, questo numero qui credo che sia ormai il 20° anno dell'esistenza di questa rivista, 1991. Se guardate in sto numero, ci sono già, e lo vedrete, sono dei personaggi che vengono poi intervistati, discutono sulle foibe. Quindi nel 1991 si riprende a discutere sulle foibe in maniera critica, eccetera. Quindi più di 10 anni prima dell'istituzione della giornata del ricordo. Con questo, cosa voglio dire con questo? Che quando Napolitano, Violante soprattutto, hanno la brillante idea di istituire questa maledetta giornata del ricordo, fanno un regalo, diciamo, all'estrema destra, in un momento in cui non c'era neanche più bisogno di ritornare su questo tema, perché era stato già ampiamente sviscerato, in particolare da una commissione di storici italo-jugoslava mista, che era andata proprio a ricostruire, diciamo, innanzitutto a identificare le persone, insomma, incominciare a dire i numeri, perché si parlava di numeri incredibili, e quindi si era stabilita la verità storica. Quindi c'era ormai un consenso da tutte e due le parti, italiana e jugoslava, su come erano andate le cose. Le cose, diciamo, si era chiarito tutto, no? La giornata del ricordo praticamente rilancia tutto, ma su un piano totalmente sballato, privo di qualunque tipo di appoggio storico, quindi nasce subito come una cosa perversa, voglio dire, no? Quindi si muove ormai su una sfera che non ha nulla a che fare, diciamo, con la storia, ma ha a che fare soltanto con le strumentalizzazioni politiche, le più banali, tra l'altro le più stupide, insomma, cioè, in realtà quando raccontano la storia della Norma Cossetto, che è vera, insomma, questa ragazza era la figlia di un gerarca fascista che stava a Trieste. Invece di pigliare il gerarca fascista, o magari forse lo pigliano, pigliano lei, la torturano e lo buttano in una foiba, quindi una cosa atroce, e quante ne sono successe di queste qua. Però queste cose erano già state elaborate dal punto di vista storiografico in maniera consensuale italo-jugoslava. Quindi sta giornata del ricordo, proprio, come dire, sembra che rimetta in gioco nel peggiore dei modi una questione che ormai i due stati avevano già superato. Questo grazie appunto ai nostri cari amici Napolitano e Violante, che sono sempre dei grandi geni. Dopo di questo è iniziato, anzi contemporaneamente a questo, è iniziato però un lavoro di storici molto approfondito proprio su questa tematica qua, l'uso pubblico della storia, già tematica aperta negli anni 70, ma sulla politica della memoria, sulla politica dell'oblio. Io poi vi darò un paio di titoli su questa cosa, perché è una cosa tra l'altro di dimensioni enormi. Non dobbiamo pensare alle foibe, pensate al problema dei gulag in Unione Sovietica, in Russia. Cosa ha significato nel momento in cui si è detto non facciamo soltanto la storia della Shoah, ma facciamo con la storia dei massacri di Stalin nei gulag, no? Pensate alla Polonia, pensate insomma a tutti, pensate alla Croazia. Quando c'è la scoppia la guerra in Jugoslavia, la Croazia, voi sapete, viene presa in mano da questo Franjo Tudiman, ex dirigente, ex militante dell'esercito liberazione di Tito, che poi entra in dissidio col governo, e mette in piedi una, come dire, formazione politica e statale che addirittura si riallaccia al passato nazista della Croazia, cioè gli Ustascia. No, e diventa negazionista, quindi da comunista a negazionista, lui contesta i numeri della Shoah e così via. Quindi pensate che razza di stravolgimento incredibile. E poi la tragedia della guerra in Jugoslavia, Milosevic e così via, eccetera. Ecco, questo per dirvi il quadro entro cui questa roba della giornata del ricordo va collocata, perché sennò noi pensiamo che sia una cosa effettivamente che ha rimesso in discussione un fatto storico che non era stato chiarito. Il fatto storico è stato chiarito mille volte, approfondito, eccetera, su quello, anzi, è iniziata una riflessione molto interessante sull'uso della memoria, perché qual è stato il grande salto di paradigma nella storiografia? Si è passati da una storiografia in cui si parlava di fascismo-antifascismo a una storiografia in cui si parla di totalitarismo. E allora nel totalitarismo tu metti sia il comunismo che il fascismo. È quello che è avvenuto in Germania, per esempio, no? Quando è caduto il muro di Berlino e le due Germanie si sono di nuovo unificate, i tedeschi dell'Ovest, che hanno, diciamo, praticamente si sono appropriati della Germania Est, che era andata, che si era sciolta proprio, lo hanno fatto dicendo: noi qui dobbiamo conservare la memoria non solo della Shoah, ma dobbiamo conservare la memoria del secondo orrore della storia tedesca, che è stata la Germania Democratica, la DDR. Quindi guai se noi dimenticheremo Auschwitz e Ulbricht, o come si chiamava, Potsdam, eccetera. Quindi sotto, diciamo, la storia della, diciamo, il cappello della storia dei totalitarismi, si mette sullo stesso piano comunismo e fascismo. Operazione, diciamo, che continua tuttora e che ha... Quindi è interessante, dicevo, studiare la politica della memoria, perché è proprio interessante capire come si sono sviluppate queste dinamiche, come queste dinamiche in realtà ancora contano proprio nel linguaggio politico. Cioè la simbologia storiografica diventa un elemento fondamentale della costituzione politica. Il caso della Croazia, per esempio, è uno di questi. Ma anche Trieste, che è sempre un nome che ha una certa potenza simbolica, no? nella coscienza degli italiani, può molto essere usata in questi termini. Quindi adesso guardiamo questa cosa. Il filmato inizia nel luglio del 1943, quando cade Mussolini. Cosa succede da quelle parti quando cade Mussolini? A un certo punto lo interrompiamo, io dico alcune cose, poi lo vediamo. I servizi segreti di Hitler intuiscono l'imminente voltafaccia degli alleati italiani. Non a caso i generali tedeschi inviano in Italia altre 8 divisioni. Ai confini orientali i partigiani sloveni sono attivi da più di 2 anni, animati da uno spirito di rivalsa contro l'Italia per la recente invasione della Jugoslavia e per l'annessione della città di Lubiana. Nel fronte di liberazione sloveno, accanto ai comunisti legati a Tito, militano i nazionalisti fedeli all'ex re Pietro. E tutti insieme rivendicano per la Jugoslavia i territori della Venezia Giulia, comprese la città di Trieste e Gorizia. I fatti della guerra, le violenze e i soprusi degli italiani fascisti contro le popolazioni slovene hanno fatto risorgere un irredentismo slavo che si propone, contro la maggioranza dei triestini italiani, l'annessione di Trieste alla Jugoslavia. Si sapeva, si sentiva, la voce corre nell'aria che i tedeschi stavano arrivando. Arrivavano subito ed era logico che arrivassero, perché Trieste era una città italiana e l'Italia aveva ceduto. L'occupazione dell'Italia è un progetto allestito da tempo e tutti i dettagli sono contenuti nel cosiddetto piano Alarico, già pronto ad operare alla fine del maggio del 43, alcuni mesi prima della caduta di Mussolini. In poche ore, gran parte del territorio italiano è occupato dai nazisti, anche Trieste. Ma quando le prime avanguardie penetrano in città, molti stentano a credere ai propri occhi. La prima apparizione fu una cosa strabiliante, un manipolo di ciclisti che venivano, armi a tracollo o non mi ricordo, sulla canna della, venivano pedalando così tranquilli in buona formazione. Non era una passeggiata, non era un'occupazione militare. Vi è dunque una strategia ben precisa: fornire ai triestini l'immagine innocua di un festoso rientro da una gita di fine estate. L'ipocrisia è evidente, ma per l'ideologia nazista la forma, i riti sono strumenti di convinzione, utili a sciogliere riserve e a far accettare la proposta di collaborazione. La macchina bellica tedesca ancora mi faceva impressione, anzi li vedevo, guarda che militari balli, che forti, robusti. Ecco, era uno spettacolo che per un ragazzo infatuato in quella maniera da regime ancora teneva qualcosa. Il giorno dopo erano già in Palazzo di Giustizia, i carri armati erano piazzati dove dovevano essere piazzati, avevano occupato tutte le posizioni, sapevano dove andare, non perdettero tempo, occuparono tutti i punti strategici. Tutto risponde a una strategia organizzata da tempo. La massima autorità è un austriaco della Carinzia, ex governatore di quella regione, un vicino di casa. Alois Friedrich Rainer. Il capo dell'SS è addirittura un triestino di origine cecoslovacca, Odilo Globoznik. Rainer si insedia nel palazzo di governo, è infatti governatore. Gauleiter in tedesco, e rappresenta dunque una carica civile. I tedeschi erano stati, devo dire, molto abili, perché loro avevano fatto leva sul ex Austria e quindi tutti i funzionari che erano giù non erano germanici, erano tedeschi dell'Austria. Quindi l'organizzazione culturale fu quella di allargare le maglie verso gli slavi e quindi avere quelli il più possibile favorevoli, e inoltre di ricreare il mito dell'Austria. I tedeschi si rivolgono con benevolenza agli slavi. Ci sono nazionalisti sloveni, croati e serbi che non disdegnano di collaborare. Il Gauleiter Rainer afferma in un discorso pubblico: gli slavi sono tedeschi che hanno dimenticato la lingua di origine. Viene creata la zona d'operazioni litorale adriatico tedesco, Deutsche Adriatische Küstenland, che comprende le province di Trieste, Udine, Gorizia, Pola, Fiume, isole del Quarnaro e territorio di Lubiana. Zona d'operazioni di nome, di fatto è territorio sottratto all'Italia in attesa di essere annesso al Terzo Reich. Ma i tedeschi non si fidano. A Trieste Hitler non ne vuole sapere di contingenti fascisti. La nuova amministrazione tedesca ostacola l'arruolamento nella Repubblica Sociale e nello stesso tempo invita la popolazione a collaborare, a perseguire i fini del Reich al quale la città si è finalmente riunita. Gli industriali triestini si presentano ai nuovi signori e danno la loro piena disponibilità, non soltanto a collaborare con il regime, ma anche indicando alcuni uomini che potranno in un certo senso rappresentare i loro interessi nell'ambito degli apparati e delle strutture politiche. È il caso di Bruno Cociani, che è indicato direttamente dall'Unione degli Industriali come figura di rilievo per occupare poi un posto di estrema importanza e rilevanza come quello del prefetto della città, della provincia di Trieste, o capo della provincia, come si diceva in quel tempo. In poche settimane i triestini capiscono di non avere protezione e che i nazisti sono ben diversi dagli illuminati amministratori dell'impero austriaco. Al seguito hanno reparti serbi, croati, sloveni, ucraini, turchestani, azerbaigiani, cosacchi, capaci di crimini efferati. E un giorno si era fermato un caro armato vicino a casa mia e era un tedesco che mangiava un pezzo di pane nero con la margherina seduto sul carro armato. Molti si arricchiscono, anche perché i tedeschi non hanno problemi a pagare. Girano con rotoli di banconote non tagliate, fresche di stampa. Ogni due settimane veniva questo armato tedesco con un camioncino, aveva diversi rotoli, cominciando, mi sembra, da 10 o da 5, non sono sicuro, ma da 10, da 50, da 100, 500 e 1000 lire. Allora aveva questo libro, chiamava per nome, se tu Bergaglia, guardava, tanti soldi. Allora diceva due di quelle, il matto tirava, tagliava, tagliava, mi dava, e poi allora alla fine dovevo tagliarmi, finire io di tagliare fuori quei soldi lì. Sì. È vero, dicevano che i tedeschi avevano i rotoli di banconote. Molti lavoratori coatti mettono in pratica un'efficace resistenza passiva che provoca ritardi e danni alle fortificazioni tedesche. Per questa ragione innumerevoli sono le punizioni e se qualcuno tenta la fuga lo aspetta la fucilazione. Sono molti i giovani giustiziati per questa resistenza senza armi. Prendono mio padre e lo mettono al muro, a Murupino, dove c'è la trattoria. Mia mamma corre lì, dice, my man, e dice, no, alles banditen. Questo è il primo discorso che io mi ricordo, alles banditen. I banditen, per i tedeschi, sono i partigiani. Nell'entroterra triestino operano quelli organizzati dal maresciallo Tito, partigiani sloveni comunisti. Anch'essi attingono ai giovani del servizio del lavoro, strappandoli ai tedeschi e obbligandoli a collaborare. I partigiani di Tito avevano occupato la Bassa Istria e che stavano buttando nelle foibe gli italiani, e mi diedero anche i nomi di persone che io conoscevo e che sapevano benissimo che non erano fasciste. Prevedendo fra jugoslavi, tedeschi, eccetera, ho detto, non è per me. E prima che mi succedi qualcosa, vado via. I triestini sono presi in una morsa tra la paura immediata dei nazisti e quella futura dei partigiani comunisti jugoslavi. Da casa nostra spari, spari, spari. Suona la campanella della nostra porta, nessuno vuole aprire. Bum, bum, colpi. Mia madre apre, vengono dentro due ragazzi triestini che erano della Guardia Civica. E che dice, signora, la scusi, la sa, potremmo andare in corte e sparare due colpi mi e due colpi mio amico. Per fare la scapisi dovremmo far finta che corremmo il trio ai partigiani. La Guardia Civica, fin dal febbraio del 1944, è alle dipendenze delle SS, composta da giovani triestini che hanno creduto di scegliere il male minore. Vai all'est, vai all'ovest, vai al nord, vai con i tedeschi a lavorare in Germania, oppure resti qua in città, vai, guarda che devi andare con la Repubblica Sociale Italiana. Insomma, non si sapeva cosa fare. La Guardia Civica, in molti casi, non segue con zelo le direttive naziste. E il maresciallo tedesco dice, adesso, ecco, adesso ognuno si provi la divisa e se la metta su. E noi abbiamo detto, ma come... Che divise sono queste? Sono le divise delle SS che voi dovete portare. Noi avevamo la divisa grigio-verde di tela dell'esercito italiano, abbiamo detto neanche per sogno, figuratevi se noi mettiamo questa divisa. Andate in quel paese, una mezza rivoluzione è successa. La Guardia Civica si limita a sopravvivere con il minor danno per sé e per gli altri, e molti di loro in segreto aderiscono al Comitato di Liberazione Nazionale triestino. Altre volte è vero collaborazionismo. C'erano i triestini in mezzo a queste SS accompagnate da triestini che sapevano le cose. E io ne riconobbi dopo uno. Gli avevo già perdonato le sue colpe. So cosa vuol dire essere nelle angustie e non si arrangia come può. Lo trovai che faceva il guardiasala, quel bigliettaio in un piccolo cinema, qui a Trieste. La città è sotto il controllo di una decina di corpi di polizia e la resistenza antifascista ha enormi difficoltà. Nel resto d'Italia i gruppi di resistenza agiscono nelle campagne e tra i monti, ma i dintorni di Trieste sono già da tempo territorio dei partigiani sloveni, che non vedono di buon occhio il Comitato di Liberazione triestino. Il CLN, infatti, si oppone alle rivendicazioni territoriali degli jugoslavi su Trieste. A questi fatti si aggiunge la crisi ideologica dei comunisti triestini. E il Partito Comunista Italiano si fuse col Partito Comunista Sloveno, qui a Trieste, e accettò la rivendicazione di Trieste alla Jugoslavia perché vedeva nella Jugoslavia un ponte verso l'Unione Sovietica, cioè per ragioni prevalentemente di classe. O questo cosa significava? Significava che la maggioranza della classe operaia, non tutta, che la maggioranza della classe operaia seguì le direttive, le nuove direttive del Partito Comunista triestino, aderì alla soluzione jugoslava, indebolendo ulteriormente quello che era lo schieramento della resistenza italiana unitaria a Trieste e rafforzando invece quella slovena. Le proposte di unità di intenti avanzate dagli slavi sono ambigue e spesso contraddette dalle notizie dal fronte, dove i partigiani italiani sono sempre in posizione subordinata. Tutti credo ignorino che vicino a Bari c'era una cittadina nella quale non si poteva entrare perché era occupata dalle truppe di Tito, dove Tito mandava i malati, i feriti del suo esercito che si rimettevano in sesto per ritornare. Tra questi malati e feriti c'erano molti giuliani che per salvarsi erano passati al momento del crollo nell'esercito di Tito, ma non avevano nessuna voglia di ritornarvi e lasciare la pelle, perché bisogna riconoscere che gli jugoslavi mettevano gli italiani nelle peggiori posizioni, più pericolose. A Trieste si teme l'arrivo dei partigiani comunisti di Tito, stato d'animo che favorisce in alcuni l'avvicinamento a fascisti e tedeschi. Mentre il proletariato, quasi tutto comunista, è favorevole alla conquista di Trieste da parte dell'esercito jugoslavo. Il prefetto Coceani arriva a proporre al CLN triestino di creare un comitato di salute pubblica, composto da tutti i corpi armati, polizie, milizia fascista, SS e partigiani triestini, uniti per respingere l'avanzata di Tito. Un CLN amico di fascisti e nazisti è una contraddizione logica e ogni accordo viene rifiutato. La Jugoslavia partigiana apparteneva allo schieramento delle Nazioni Unite. Mettersi contro la Jugoslavia partigiana, contro le sue rivendicazioni, fino a magari arrivare al punto di uno scontro armato, avrebbe significato per il CLN di Trieste, che poi non aveva le forze per compiere nemmeno questa operazione, significava mettersi contro le Nazioni Unite di cui la Jugoslavia faceva parte. Pertanto la linea del CLN triestino senza i comunisti continuò ad essere, come prima, una linea di lotta contro i nazifascisti. Il fronte di liberazione sloveno accuserà il CLN triestino di connivenza con il nemico. Il solco tra le due culture si fa sempre più largo. Il fascismo ha dato il via a questa frattura. Qui seguono le lusinghe naziste verso le componenti tedesca e slava della città e quindi la reazione nazionalista della parte slovena. Ognuno pretende di imporre una ideologia omogenea ad una città che trae invece origine da una miscela di culture. Il contrasto fra gli alleati sulla strategia nei Balcani sarà funesto per Trieste, che da allora dipenderà per il suo destino dai mutevoli atteggiamenti politici di inglesi e americani. Rainer, il governatore di Trieste, fantastica che a guerra finita e con l'appoggio degli anglo-americani, costruirà una grande Carinzia che includerà il Tirolo, la Venezia Giulia e il territorio di Lubiana. Ma persevera nel duplice atteggiamento di amico e oppressore e non risparmia ai triestini le peggiori atrocità. La città e il suo retroterra furono una delle città più duramente colpite in Italia dalle rappresaglie naziste, che continuarono fino all'aprile del 45, perché le ultime fucilazioni avvennero proprio una settimana prima dell'insurrezione del 30, che qui avvenne il 30 aprile. Palazzo Rittmeier, oggi sede del Conservatorio di Musica, all'epoca casa del soldato Soldatenheim. Nell'aprile del 44, 5 soldati tedeschi muoiono in un attentato commesso da partigiani sloveni. Sento un giorno la botta, salta fuori in via Ghega. Vi ricordate quell'attentato? Era il 44. Persone si era vestito di ufficiali tedeschi e ha portato dentro le bombe e le ha in estate messe dentro e si è usciti nuovamente fuori e ha saltato parare tutto. Erano sventrate le finestre basse e sulle finestre erano già impiccate le persone. Gli ha fermato il tram, che quella volta era il tram, ne ha fatto scendere e guardare. E guai se girava la testa, doveva guardare. Passando davanti ho visto tutta questa gente impiccata sulle finestre. Prendeva gente per strada e li impiccavano là, a parte quelli. Allora ha detto qua qualcosa non funziona. le rappresaglie proprio crudeli, proprio esagerate, perché dopo gli ha preso la gente per le strade. 50 le vittime, la maggior parte giovani, innocenti. E là mi li ho visti uno per uno con la forza dei tedeschi. Trieste subisce il 10 giugno 1944 il primo bombardamento americano. Centinaia i morti. Suonava l'allarme, ma nessuno aspettava i bombardamenti, no, di Trieste. Della chiesa gli erano sti tocchi di esseri umani, teste, gambe, braccia, morti. Gli era una roba, come dire, che resta nella memoria, perché non si può dimenticarsene. Sono scampato da mia mamma dal rifugio e sono corso a casa a cercare questo pacchettino dove dentro c'erano queste quattro, tutto quel che avevamo. E sono arrivato in portone e cascare la bomba, però stavamo in terzo piano. Sono arrivato in portone e cascare la bomba, mi ha sbattuto per tutto, ma non mi ha fatto niente, no? E mi sono corso dopo il rifugio con mia mamma, che lei era... stava in pena per me proprio, perché sono proprio scampa via. Quando le sirene che hanno cessato all'allarme, noi siamo usciti, siamo andati verso casa e la casa non era più. Restar vivi è casuale, affidato al capriccio dell'occupatore. Si suona, si canta, si muore. Anche i bambini. All'interno del sistema complesso della storia dei lavoratori croati c'è un'altra storia, quella dei Kinderbandite, di ragazzini che un giorno vengono rastrellati da diversi campi di lavoro e fatti indossare delle vecchie luride divise italiane e fatti marciare alla tedesca e fatti, diciamo, apprendere gli ordini in tedesco e abituati a una vita di caserma. Per quale finalità e obiettivo? In primo luogo, quello di utilizzare questi giovani come uomini da soma per trasportare cassette di munizioni e soprattutto essere impiegati come scudi umani nelle operazioni, diciamo, di rastrellamento più difficili che le SS compivano nel Carso tra Gorizia e Trieste. Venivano mandati in avanscoperta, in qualche caso addirittura succederà con delle armi in mano scariche, in modo che se fosse stata una reazione da parte opposta, la prima raffica li avrebbe coinvolti. Le vittime negli ultimi mesi di occupazione crescono. La città è minata. Anche nel vero senso della parola, cariche esplosive sono nascoste ovunque, pronte per l'atto conclusivo. L'esercito nazista in Italia sta per capitolare e le armate jugoslave avanzano rapidamente verso l'Istria e la Venezia Giulia. Più distanti, le divisioni anglo-americane con grande preoccupazione dei triestini. Il 30 aprile 1945 la quarta armata di Tito è a 9 km da Trieste. La seconda divisione neozelandese dell'ottava armata britannica a 80 km. All'1:30 di notte i militari jugoslavi tagliano i cavi della luce. La città è nelle tenebre. Il 30 aprile 1945 a Berlino infuria la battaglia. Sovietici e tedeschi combattono casa per casa. La capitale del nazionalsocialismo è distrutta. Durato solo 12 anni, il regime di Hitler lascia un tragico, indelebile segno nella memoria dell'umanità. Il 30 aprile 1945, il Führer si toglie la vita. È la fine del nazismo. E Berlino è in mano sovietica. In Italia, il 30 aprile 1945 si festeggia la liberazione. La gente si riversa nelle strade. A Milano, il corpo di Mussolini, assieme a quello della sua compagna Claretta Petacci e a quelli di altri gerarchi della Repubblica Sociale, viene esposto alla folla di Piazzale Loreto. È la fine del fascismo. Sfilano i partigiani nelle città del nord, ultimo atto pacifico di una guerra dolorosa, e gli angloamericani sono salutati come liberatori. In Italia il 30 aprile è giorno di festa. La guerra è conclusa. Gioia e libertà ovunque. Tranne ai confini orientali. A Trieste. La città è ancora in mano all'esercito tedesco, ormai in fase di ritirata. Le armate jugoslave, da est, stanno infatti convergendo su Trieste. Più lontani, ad ovest, i contingenti anglo-americani. Il 30 aprile, all'alba, tre colpi di sirena segnano l'inizio dell'insurrezione. Il Comitato di Liberazione Nazionale, il CLN, guida gli insorti e raccoglie gruppi della Guardia di Finanza, dei Carabinieri e della Guardia Civica. Suona la sirena, allora tutti abbandoniamo i distaccamenti, li portiamo con le armi, ci portiamo in città, molti si mettono, cioè molti, moltissimi si mettono in borghese, perché era l'unico motivo per sfuggire ad eventuali repressioni da parte di amici, nemici, insomma non si sapeva chi era amico, nemico in quel giorno là. Nemici, amici, contraddizione drammatica di Trieste che vive anche nel giorno dell'insurrezione. Il conflitto infatti non è solo contro i tedeschi occupatori. Accesi contrasti tra i comunisti e gli altri partiti, tra slavi e italiani, dividono la città. L'insurrezione promossa dal CLN è subito seguita da quella dell'unità operaia diretta dai comunisti italiani e sloveni. Di conseguenza a Trieste ci furono due insurrezioni quasi contemporanee e separate. Due insurrezioni, perché la resistenza italiana e quella slovena di Trieste non sono riuscite a trovare un accordo. Le proposte slovene di un governo comune della città sono inaccettabili per il CLN triestino. Figurava che al CLN venivano concessi soltanto tre posti. Tutti gli altri posti, anche se c'erano candidati italiani, erano candidati italiani che favorevoli all'Unione di Trieste e della Jugoslavia. In modo che il CLN sarebbe venuto a trovarci in questa situazione. Tre posti per i partiti che si battevano per l'unità nazionale all'Italia. E il resto, otto posti alle altre organizzazioni controllate direttamente dal Fronte di Liberazione Sloveno e dal Partito Comunista Sloveno. Significava togliere la città dalle mani dei nazisti e cederla alla Jugoslavia. Il CLN si oppone, anche perché è sicuro dell'appoggio anglo-americano. Inizia così l'illusione da parte dei triestini di poter controllare il loro destino. Nella realtà, questo lembo di terra è soggetto alle strategie dei grandi, i quali, nei loro vari incontri, da quello di Casablanca tra Churchill e Roosevelt, da quello di Yalta tra Churchill, Roosevelt e Stalin, non sono mai concordi sul destino di Trieste. Il 27 aprile 1945 Churchill comunica al nuovo presidente americano Truman la necessità di occupare subito la Venezia Giulia. Non c'è un minuto da perdere. Vi prego di formulare una sollecita decisione. Il 28 aprile il generale Alexander riceve l'ordine di formare il governo militare alleato su tutta la Venezia Giulia, rispettando i confini esistenti prima della guerra. Il 30 aprile Truman cambia idea. Teme le conseguenze politiche interne provocate da uno scontro con gli jugoslavi, suoi alleati. Ordina ad Alexander di non forzare la situazione. Questo clima di incertezza condiziona l'avanzata dell'ottava armata britannica, in special modo della seconda divisione neozelandese che punta verso Trieste. È al corrente il CLN triestino di questo nuovo atteggiamento degli alleati? Probabilmente no, e quindi insorge. Circa 2000 uomini riuniti nel Corpo Volontari della Libertà con armamento precario, fucili modello 91, qualche mitra, alcune bombe a mano. Insorgono, devono dimostrare agli angloamericani che Trieste viene liberata da cittadini italiani. Il porto è l'obiettivo principale, bisogna impedire ai tedeschi di attivare le mine. Nei sobborghi iniziano le prime azioni del fronte di liberazione sloveno. La resistenza nazista ora dopo ora si indebolisce. I soldati germanici sanno che il loro destino sta per concludersi. A fine giornata il CLN ha conquistato gran parte della città. I tedeschi tentano delle vie di fuga. Alcuni cadono prigionieri degli insorti, altri cercano protezione tra le mura del tribunale e nel castello sul colle di San Giusto, in attesa di arrendersi ai neozelandesi. Anche il CLN aspetta l'arrivo dei neozelandesi per consegnare loro la città. Ma dalle colline circostanti giungono gli echi di una battaglia. Sono le armate jugoslave che attaccano i capisaldi nazisti sul Carso. E quanto aspetta l'altro gruppo di insorti, il fronte di liberazione sloveno. Le truppe del maresciallo Tito sono state più veloci di quelle anglo-americane. Hanno marciato giorno e notte verso Trieste, trascurando la liberazione di Zagabria e Lubiana. Sanno quanto sia importante arrivare per primi, occupare la città. Sono corsi con ogni mezzo, anche requisendo biciclette ai loro compatrioti sloveni. Così siamo arrivati ultimo aprile alle 10 di sera vicino a Trieste con le biciclette che abbiamo sequestrato a queste famiglie. In città, il 30 aprile, molti sperano che i tedeschi sull'altipiano resistano il tempo necessario a consentire l'arrivo degli angloamericani. Così, a pochi chilometri di distanza, i nemici, i tedeschi, diventano alleati e gli alleati, i jugoslavi, nemici. Contrasto senza soluzione che obbliga tanti triestini ad essere amici e nemici dentro se stessi. L'imminente calata dell'esercito jugoslavo provoca la reazione dei tedeschi in città, reazione che coinvolge anche i bambini. E si arriva una pattuglia dei tedeschi, mi mega becca, branca e portato non mi ricordo la via, perché mi sembra Sevizin, là. E gli erano altri muletti e veci, che, come mi adesso, e gli dava gli elmetti tedeschi, i fucili, eccetera. E mi ha dato anche mio un elmetto tedesco e fucile. Allora mi ha messo alla fine di Via Media. I titini veniva giù da Via Media. E come che loro veniva giù, gli ha detto a voi, sparè. Però quando che Matica cominciava a venire più vicino, raffiche di mitraglia, che c'ha i due tedeschi, ma c'ha mi qua, 21 punti. I titini, i partigiani di Tito, entrano in città. Si vedeva tutto quanto, si vedeva che avanzava su dalle colline, veniva giù. E aspettai, credendo che sarà la libertà, invece era un altro peggio che prima. Per gli sloveni dei dintorni e per una parte della classe operaia comunista è una festa e i titini sono salutati come liberatori. Per la maggioranza italiana della città invece è costernazione. La mattina del primo maggio. Gran festa della gente per le strade, delle bandiere slovene, jugoslave, bandiere con la falce e martello. E ho visto anche tante bandiere, anche bandiere italiane, però con la stella rossa con la stella rossa sul campo bianco, anche per Trieste e non solo nei dintorni. Vengono giù le truppe jugoslave e li vedo che sono mal ridotti, ho visto che si comportavano anche molto male, tutto l'insieme, però ero in quel momento ero più legato a loro che alla Repubblica Sociale o ai tedeschi, eccetera. Allora lì cominciava a maturare in me qualcosa di altro, poi l'illusione di un mondo nuovo, di un mondo di uguali, compagnia bella, tutte queste cose qua. Ho cercato di stabilire subito un contatto paterno con questi militari, i quali naturalmente non ci vedevano di buon occhio, vedendo dei civili con al braccio una fascia del tricolore italiano. Una cosa penosa, penosa dal punto di vista estetico, dal punto di vista della dignità, insomma, uomini che erano stanchi, ciabattavano a piedi e con scarpe, con pezze, con ognuno vestito in un altro modo, insomma, questo era l'esercito che liberò Trieste nella loro espressione. Ma l'altro esercito, invano atteso dalla maggior parte dei triestini, dov'è? I neozelandesi avanzano rapidamente attraverso la pianura padana, incontrando scarsa resistenza. Tutti si aspettano una marcia diretta su Trieste. Trieste italiana, insorta ieri per iniziativa Comitato Liberazione Nazionale contro dominazione nazista, abborre diffidente occupazione jugoslava. Ansiosa, attende tempestivo arrivo a forze alleate. Così un radiogramma disperato del CLN indirizzato al comando dell'ottava armata britannica. Senza risposta. Le truppe neozelandesi indugiano a 20 chilometri da Trieste. Non avevano ancora l'ordine di entrare e l'ordine di entrare venne più tardi, cioè venne il giorno dopo, quando oltre al resto si cominciò a sapere che gli slavi stavano cominciando a fare quello che hanno fatto nei famosi 40 giorni. La seconda divisione neozelandese al comando del generale Freiberg è caduta nelle trappole diplomatiche degli jugoslavi. Incontri disattesi, nuovi accordi e nuovi appuntamenti mancati da parte jugoslava ottengono il risultato voluto. Freiberg non si muove per un giorno intero. A Trieste, il primo maggio, il CLN sta ancora combattendo. I tedeschi, infatti, non vogliono cadere in mano jugoslava e cercano di riprendere il controllo del porto, ultima loro via di fuga. Ma le avanguardie della quarta armata di Tito sono ormai in città. In pieno centro, ai portici di Chiozza, avviene l'incontro con i capi del CLN triestino. Le fredde formalità dell'ufficiale jugoslavo nascondono una strategia a lungo meditata. Non chiede la collaborazione del CLN italiano, ma solo le posizioni dei tedeschi. Inizia così l'occupazione della città e il tentativo da parte jugoslava di annullare il contributo degli insorti italiani alla liberazione di Trieste. I primi partigiani, dalmati, i quali in perfetto italiano ci hanno detto: state tranquilli, domani cambiamo la moneta, diventiamo noi padroni della città e voi governiamo noi, voi state tranquilli, non vi succederà niente. Nei nuovi manifesti si inneggia a Trieste jugoslava e si condanna il CLN italiano chiamandolo fascista. Il Partito Comunista Sloveno aveva stabilito, e questo credo anche il Partito Comunista Croato, che tutte le insurrezioni che non si conformavano allo spirito e alle direttive del maresciallo Tito andavano considerate come nemiche. Inizia la tragedia di Trieste. Vicini di casa sono costretti dagli eventi a diventare nemici. In maggio non avevo neanche 15 anni, allora io ero davanti a questa compagnia dei giovani, armato, presto no? Altri giovani non erano armati, e marciamo per via Carducci, in viale, un poco dappertutto, sempre insieme con me davanti, armato con la mitra. I partigiani jugoslavi si stanno appostando. Qui, come in altre parti della città, ancora sopravvive una tenue collaborazione con gli uomini del CLN triestino. Commissario mi dice, tu vai avanti con i tuoi uomini a vedere dove sono i tedeschi. Io dico, ma i tedeschi sono qua in tribunale, qua a 100 metri più avanti. Va bene, vai avanti, vai avanti. Dalle finestre del tribunale i tedeschi sbeffeggiano le truppe jugoslave che non possiedono l'armamento necessario ad espugnare l'edificio. I combattimenti furono particolarmente violenti il 2 maggio perché i tedeschi non volevano arrendersi agli jugoslavi, volevano arrendersi agli anglo-americani. Le truppe germaniche temono di subire lo stesso trattamento spietato cui hanno sottoposto i combattenti dell'esercito jugoslavo fatti prigionieri, violenze, privazioni, esecuzioni sommarie. Solo a Trieste la guerra non è ancora finita. Nel resto del paese le armi tacciono da tempo e il 2 maggio, a Caserta, viene firmata la resa senza condizioni dell'esercito tedesco in Italia. The terms of the instrument of surrender will take effect from 12 noon on the 2nd of May 1945. Il 2 di maggio, finalmente, il generale Freiberg dà ordine alla seconda divisione neozelandese di entrare a Trieste. Lungo il tragitto sbaraglia alcune sacche di resistenza tedesca che controllano la strada costiera. Giunto al castello di Miramare, insiede il comando mentre i suoi uomini entrano in città. L'accoglienza dei triestini è entusiastica. Rinasce l'illusione di libertà. Grande è anche la soddisfazione del primo ministro inglese Churchill, che comunica ad Alexander. Importante è avere infilato un piede nella porta. Liberatori saranno proprio loro, i neozelandesi, arrivati in tempo per riaprire la questione. Si rivolgono con benevolenza agli jugoslavi, sono pieni di ammirazione per questi uomini che hanno saputo sbaragliare con eroismo le divisioni naziste e creare un nuovo Stato unitario. Ma gli jugoslavi non gradiscono i nuovi arrivati e manifestano un'evidente ostilità. Nobody wanted World War III to start where World War II finished. Nessuno voleva che la Terza Guerra Mondiale iniziasse là dove era finita la Seconda. Era una prova molto dura per la psicologia dei neozelandesi che erano abituati a manifestare le loro idee. Ma nessuno di noi voleva continuare una guerra che aveva ucciso milioni di uomini e altri milioni ne avrebbe ucciso. E così dovemmo accettare questa sgradevole situazione. L'ostilità degli jugoslavi è dettata da precise ragioni. Temono di perdere il controllo della città. Vi è un accordo, infatti, tra Churchill e Tito, stipulato alcuni mesi prima, secondo il quale gli anglo-americani avrebbero riconosciute valide le autorità civili presenti nella Venezia Giulia al momento del loro arrivo. E a Trieste le autorità civili sono ancora italiane. A questa preoccupazione si aggiunge per gli jugoslavi lo smacco della resa nazista ai neozelandesi. Una resa che doveva garantire ai soldati tedeschi assediati di non cadere in mano jugoslava. Le trattative vanno per le lunghe e i neozelandesi decidono per un'azione di forza. Dopo 5 minuti di cannoneggiamento dei carri Sherman, i tedeschi si arrendono ed escono dal palazzo del tribunale, alcuni già in borghese. Gli jugoslavi protestano, esigono i prigionieri e il bottino di guerra. Non era una buona mossa lasciare tutti gli jugoslavi. Non volevamo che entrassero in possesso delle armi tedesche, perché le avrebbero potute usare contro di noi. I neozelandesi a questo punto cominciano a temere le reazioni jugoslave. E durante le trattative per la resa dell'altra postazione tedesca in città, sono bersagliati da cecchini jugoslavi. I principali caposaldi tedeschi erano il colle di San Giusto, dove c'è il castello di San Giusto, i tedeschi si erano asserragliati sul posto, si arresero soltanto quando arrivarono sul posto le prime unità neozelandesi. allora la presenza degli ufficiali alleati, i tedeschi si arresero, vennero poi consegnati agli jugoslavi, tra l'altro, dunque non fu per loro una soluzione positiva. Gli jugoslavi sono determinati, vogliono riprendersi i prigionieri. E così avviene. Intere colonne vengono dirottate verso le zone interne. I tedeschi, da prigionieri, lasciano Trieste, mentre altri jugoslavi entrano a concludere l'occupazione. Un tragico cambio della guardia. Inizia la caccia ai fascisti o presunti tali. Una caccia che si lascia sfuggire dalle carceri appena aperte collaborazionisti arrestati dal CLN e che si scatena invece proprio contro gli insorti italiani. È un chiaro disegno e a guidare i rastrellamenti sono i commissari politici. Il sloveno dice al commissario, dice, questi sono tutti fascisti. Allora, dico, io che ho capito l'antifona, dico ai ragazzi, tagliamo la corda, non correndo, perché se corriamo ci fregano, camminando tranquillamente andiamo via. E si arriva allo scontro armato. Membri del CLN sparano contro gli jugoslavi per proteggere dall'arresto guardie di finanza che hanno partecipato all'insurrezione. All'interno del municipio e della prefettura, il CLN è in attesa di cedere i poteri agli anglo-americani. Un ufficiale infatti si reca al Palazzo Comunale e promette agli insorti che il generale Freiberg arriverà entro un quarto d'ora. Ma Freiberg non si fa vivo. Entrano invece i partigiani jugoslavi, armi alla mano, occupano prefettura e municipio, tolgono le bandiere italiane e issano quelle jugoslave. Allora il CLN qui dovette rientrare nella clandestinità per sottrarsi alla cattura, alcuni suoi militanti vennero catturati e deportati o uccisi qui sul Carso. Gli insorti italiani e militari tedeschi, nemici fino a poco prima, sono ora uniti dalla stessa sorte. Freiberg non vuole correre rischi. Accettare i poteri dal CLN triestino con l'esercito jugoslavo che preside la città porterebbe allo scontro armato. Ad una nuova guerra. Ma per Trieste è un altro colpo. Le autorità civili riconosciute dagli anglo-americani sono jugoslave. It was a decision which was taken well above our heads between. Fu una decisione presa tra i capi di Stato. I jugoslavi avrebbero governato la città fino a che non si sarebbe trovato un accordo tra le parti. Ma non penso che fecero la cosa giusta. I do not think they did it the right way. In quel momento lì cominciava un'altra guerra che noi non sapevamo cosa era, non immaginavamo neanche cos'era. Il giorno dopo, il 3 maggio, Piazza dell'Unità è gremita di folla. Partigiani di Tito, minoranza slovena e comunisti triestini celebrano la conquista di Trieste da parte dell'esercito jugoslavo. Gli uomini di Tito si presentano alla città, così come hanno fatto in precedenza i nazisti, in veste di fratelli ritrovati, sono liberatori e chiedono alla popolazione di collaborare, di portare a termine la lotta contro il nazifascismo. E così, come hanno fatto i nazisti, scorporano la città dall'Italia e annunciano la prossima annessione di Trieste alla nuova Repubblica Federativa Socialista di Jugoslavia. Si rivolgono in realtà ad una parte della popolazione triestina, alla classe operaia e alla minoranza slovena, obbligando la città a dividersi. Chiunque si dichiari favorevole all'Italia viene bollato come fascista, da epurare e perseguitare. Italiani, slavi, austriaci, fascisti, comunisti. Continua la strategia dello spaccare la città in frantumi etnici e politici contrapposti. Ma si stampano anche i manifesti con le ordinanze, dove si annunciano i nuovi provvedimenti. Tra questi, un coprifuoco dalle 3 del pomeriggio alle 10 del mattino successivo. Ma subito dopo vennero fuori i bandi, eccetera, eccetera, chiuso qua, chiuso là, eccetera. Con la scusa della lotta al fascismo e di riportare la libertà al popolo, è proprio durante le ore del coprifuoco, con la città deserta e con pochi testimoni, si comincia ad arrestare e deportare. Il Tribunale del Popolo emanò un ordine di arresto dei suoi componenti, definendo il CLN letteralmente famigerato e criminale. Il governo militare non vuole indebolire il tessuto economico della città, così da garantirsi una tranquilla amministrazione e mettere il porto di Trieste al servizio dei paesi dell'Europa centrale. Nel progetto degli alleati, la città dovrebbe diventare una sorta di testa di ponte, utile alla diffusione dell'influenza americana in Europa per contrastare quella sovietica. Ma ufficialmente il compito degli anglo-americani è impedire mutazioni dei confini prima della conferenza di pace prevista a Parigi per l'anno successivo, nel giugno del 1946. Non vi è quindi alcuna certezza che Trieste torni all'Italia. Si susseguono per tutto il 1945, a ritmo incalzante, manifestazioni e cortei filoslavi e filitaliani in tutta la città. Il governo militare alleato teme un progetto jugoslavo di riconquista della zona A. Manifestazioni e scioperi sarebbero il preludio all'aggressione militare. Per controllare e contenere proteste e dimostrazioni, il 27 ottobre del 1945 viene creata una nuova polizia, la Polizia Civile, sul modello di quella metropolitana di Londra. 3.500 uomini, tra cui membri della resistenza italiana e slovena ed ex componenti la Guardia Civica, che fu polizia alle dipendenze degli occupatori nazisti. E allora gli inglesi hanno cominciato ad arruolare giovani per formare una polizia, e l'hanno chiamata la Polizia Civile. Naturalmente molti della Guardia Civica, molti già ufficiali effettivi dell'esercito italiano, cosa potevano fare? Allora sono arruolati nella Polizia Civile. Io direi che almeno, non vorrei esagerare, ma almeno una 200 ragazzi della Guardia Civica sono andati nella Polizia Civile. All'ombra di manifestazioni e contese di piazza trovano rifugio traffici di merci e di informazioni, individui compromessi con il nazifascismo, ma anche sloveni anticomunisti, fascisti croati, serbi monarchici. Un marasma descritto con eccesso da giornali stranieri che definiscono Trieste un misto tra casba algerina e città spagnola. Quando ero io a Trieste c'erano 16 servizi segreti contemporaneamente in atto, di cui alcuni italiani, ma di gran parte paesi che poi non c'entravano poco, tipo spagnoli, tipo gente che non c'entrava per niente. C'erano 16 servizi segreti. Trieste sembra essere diventata una sorta di palestra per l'esercizio della guerra fredda, luogo dove si intrecciano gli interessi più diversi. In questa situazione confusa, gli scontri tra filo jugoslavi e filo italiani si esasperano. Dimostrazioni e controdimostrazioni furibonde si susseguono nella città. È l'arrivo nel marzo del 1946 di una commissione interalleata composta da americani, inglesi, sovietici e russi, accende ancor più gli animi. La commissione ha infatti il compito di studiare il territorio conteso tra Italia e Jugoslavia, in sostanza di decidere quale sarà il confine. Le risultanze della commissione interalleata sono contraddittorie, come tutta la questione di Trieste, che sembra non avere vie d'uscita. I russi appoggiano le richieste jugoslave. Trieste, Gorizia e tutta l'Istria vanno alla Jugoslavia. I francesi propongono un confine simile a quello del 1914, con il passaggio all'Italia di Trieste e Gorizia. Inglesi e americani sono più generosi verso l'Italia, includendo l'Istria occidentale e Pola. Non c'è accordo tra i membri della commissione e tutto è rimandato alla conferenza di pace di Parigi. Manifestazioni, scontri, feriti e morti sono una tragica e inutile esibizione. E la città continua a vivere nell'incertezza. Non sa sotto chi andrà a finire. Ma per gli alleati non decidere la definitiva collocazione di Trieste è l'unica alternativa. Per Trieste è un dramma senza fine. Nuovi scontri e devastazioni. Protestano gli slavi, protestano gli italiani. Il 4 luglio 1946 si firma l'accordo. Il territorio libero di Trieste dipenderà dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che del territorio nominerà il governatore. Si stabilisce la nuova frontiera tra Italia e Jugoslavia. La maggior parte della zona B diventa Jugoslavia, anche Pola. La zona A viene ulteriormente divisa. Una parte va alla Jugoslavia. Gorizia e Monfalcone tornano all'Italia. Il territorio libero di Trieste, invece, è ridiviso in due nuove provvisorie, zona A e zona B, in attesa del governatore. La prima, zona A, controllata dal governo militare alleato. La seconda, zona B, controllata dalla Jugoslavia. In pratica, con la linea francese si cede tutta l'Istria alla Jugoslavia e il destino di Trieste rimane irrisolto. Credo che si è capito, insomma, che era una situazione molto complessa sostanzialmente. E che quindi fenomeni appunto come quelli delle foibe eccetera vanno inseriti in questa situazione dove veramente la gente era spaccata in due. Io volevo leggervi adesso dicevo non ho voluto interrompere, comunque si è visto chiaramente, insomma, che la situazione era effettivamente molto confusa. D'altro canto, come avete visto, gli insorti, diciamo, del CLN erano sostanzialmente pezzi di guardia civica, pezzi di carabinieri e pezzi di guardia di finanza che fino al giorno prima erano stati dall'altra parte, no? Che avevano proprio, si era visto anche in quello che diceva lui, no? Cambiavano le divise eccetera, quindi è chiaro che, come dire, quando arrivano partigiani di Tito, vedono questi qua, non è che vanno a dire ma tu effettivamente non eri d'accordo, insomma, in quelle giornate era una confusione incredibile, no? Ma per dirvi come, a che punto si viveva, io volevo, adesso vediamo come faccio, adesso andare giù, volevo farmi vedere la testimonianza della figlia di un partigiano sloveno. Allora, questa qua si chiama Silva Dobrila Bonasing, è stata intervistata molti, molti anni dopo. Quello per farvi vedere, insomma, che condizioni erano la gente in queste zone di confine. Lo dice, la famiglia di mio padre era slovena di Erpelle sta sopra Trieste, lui aveva studiato a Trieste da automeccanico, in italiano, era anche andato militare in Sicilia. Era comunista, clandestino, girava per fare agitassia per tutta la Jugoslavia, si spostava dappertutto. A Zagabria lavorava nella ferrovia e lì aveva conosciuto mia mamma. Quindi questo qui era uno sloveno che era andato a fare militare in Italia, quindi lui non aveva potuto parlare sloveno durante il periodo fascista. Comunque aveva dovuto fare militare in Italia, torna indietro ed entra in clandestinità. Fa quindi, diciamo, la sua attività clandestina, conosce appunto questa donna, la sposa, no? E dice, lì c'erano anche tanti sloveni a Erpelle, andati via a causa degli italiani. Là aveva anche qualcosa da fare. Il partito poi l'aveva mandato anche in Serbia. Mia mamma mi ha raccontato che dopo sposati era poco a casa, perché lui faceva sempre attività clandestina, ma faceva una letterina per chi aveva fame da darla a mia mamma con su scritto dai a quest'uomo da mangiare, evidentemente erano di partigiani, insomma, che a cui lei doveva dare da mangiare, e mia mamma gli dava da mangiare quanto poteva dargli, non so. Lei diceva anche che lui era tanto per i diritti delle donne, era nato l'8 marzo, lui non voleva che mia mamma lavorasse fuori, diceva che il capitalismo sfruttava le donne, eccetera, eccetera. Quindi dice, io avevo 5 anni e mi ricordo che mia mamma mi ha portato Arpelle dalla nonna, che parlava sloveno, ecco, e italiano. Era levatrice, faceva tante iniezioni di vitamine, anche i carabinieri, i marescialli, che lì erano tanti, soprattutto Cosina, che con Arpelle è la stessa cosa. Mia nonna aveva il figlio comunista, in bosco con i partigiani. Io non ho capito se quella nonna era la madre del padre oppure se era la madre della madre, quindi anche lei aveva un figlio partigiano. Quindi 2 partigiani in famiglia sostanzialmente. Però lei diceva, ogni giorno bestemmiava contro di lui, contro Mosca, contro Stalin e tutti quanti i comunisti. Tutta questa gente veniva ogni giorno per le iniezioni, lei conosceva tutti. A me aveva detto, se ti domandano cosa sei, devi dire che sei italiana. Se sono italiana, ricordite, venivano tutti, mai senza un bonbon, eccetera, eccetera. Nel 43, quando è cascata l'Italia, è arrivato in paese mio papà, con altri con una mitraglietta in spalla. Mi ha preso in braccio, orgoglioso, mi ha sollevato davanti a tutti, mi ha chiesto, adesso devi dire chi sei. E lei dice, io ho detto sono italiana. Allora lui mi ha messo giù, mi ha detto che non avrei mai più dovuto dire che ero italiana perché io ero slovena. Quella è stata la prima e l'ultima volta che mi ha preso in braccio. Io da quel giorno non volevo più parlare italiano. Allora dice, poi veniva il carabiniere, il maresciallo, loro erano abituati che parlavo e giocavo, ma io non arrivavo più a aprire bocca. E allora la nonna mi ha messo insieme le uova a formaggi e mi ha portato da una sua, non so cosa fosse, credo una nipote, che viveva a Capodistria e parlava solo italiano. E io dovevo vivere in quella famiglia costretta a parlare in italiano. Quindi dice, quando devi mangiare devi domandarlo in italiano. Se domandavo in sloveno non mi davano da mangiare e andavano fuori. Quindi questa povera bambina veniva portata in una famiglia dove lei doveva parlare, mentre suo padre dice, tu devi parlare sloveno. Solo che suo padre non l'ha visto mai più, perché nel 45 ne sono venuti a sapere che era caduto come partigiano. Quindi capite, insomma, che razza di casino che viveva questa gente. E quindi in che situazione complessa, come dire, si trovavano, quando si dice amici nemici, no? Ha ragione, insomma, sembra assurdo, però effettivamente è così. No, potrei dirvi tante altre cose, non volevo aggiungere magari, non so se posso andare indietro, ah ecco, su quelle cose che consiglierei la lettura, sono, vedete, 2 cose fatte nel 2012-2013, è molto interessante, io questa citazione, questa memoria della bambina l'ho tirata fuori dal primo libro. L'altro è questo libro sulle politiche della memoria, la politica dell'oblio, è un libro di saggi di vari autori che secondo me vale molto la pena. Ah vabbè, qui era una cosa che si riferiva alla mia famiglia, nel senso che questa è una fotografia presa dal terrazzo della città dove sono nato, della casa dove sono nato, e quindi io ho assistito da bambino, diciamo, alle ultime scaramucce, perché il castello dove si erano asseragliati era quello lì, lassù lo vedete. Questa strada qui, mi ricordo un episodio che viene ricordato anche da 48 Gambini nel suo libro, mi ricordo io e mia madre eravamo affacciati che guardavamo questi partigiani che stavano appostati perché stavano al riparo dalle raffiche dei tedeschi. E a un certo punto sentiamo delle raffiche, facciamo in tempo a buttarci indietro e vediamo un camion scoperto con dei soldati tedeschi dell'SS distesi per terra che sparavano all'impazzata. Erano rimasti evidentemente chiusi dentro, no? I partigiani erano andati avanti e loro cercavano di rompere l'accerchiamento, però siccome da quelle strade non arriva il castello ci ha lasciato la pelle. Cosa che volevo dire? Allora, beh, qui sono i cantieri dove lavorava mio padre, li hanno distrutti completamente. La cosa appunto particolare è che a Trieste erano arrivati, quando sono arrivati i tedeschi, non si sa come, dove che finisco tra 5 minuti, non si sa come, arrivano a Trieste un gruppo, diciamo, dei peggiori criminali che hanno messo in piedi i campi di concentramento. sono una pattuglia di una decina di persone, tra cui quel Globocnik. Uno di questi è questo signore qua, si chiama Christian Wirth, che i partigiani uccidono in un attentato proprio in quel paese Erpelle nel maggio del 44. Dunque questo signore qua, per dirvi come si era il concentrato dell'abiezione, dunque lui era stato responsabile dell'azione T4, l'azione T4 era quella in base ai quali i nazisti avevano incominciato a tirare fuori dai manicomi la gente e uccidere, quindi hanno soppresso i disabili e gli ammalati psichici, eccetera, no? Che venivano definiti Lebensunwertige, vite che non sono degne di essere vissute. In questo modo hanno ammazzato 70.000 tedeschi. Tant'è che Hitler è stato costretto poi ad affermare questa cosa, perché c'erano, insomma, un po' di proteste. E lui è stato uno dei responsabili di questa cosa qua. Dopodiché è andato a organizzare tre campi di concentramento, Sobibor, Belzec e Treblinka. Quindi è uno anche dei corresponsabili del 1,5 milione di ebrei polacchi trasferiti lì. E arriva a Trieste, non si capisce bene perché, ma non solo lui, ma anche degli altri della sua risma, e lì si occupa anche del famoso campo di sterminio di San Sabba a Trieste. Lo fanno fuori, se Dio vuole, e prima, ecco qui, prima fanno fuori un altro del suo. Infatti lui che recita l'orazione funebre, qui appunto è il grande presidio tedesco di Opicina, che i partigiani di Tito hanno dovuto espugnare, perdendoci un sacco di gente. Questa battaglia di Opicina, come si parlava anche nel filmato, durata circa 4 giorni, ha avuto circa 1,000 morti, 700 tedeschi e 300 dagli altri. Tra l'altro i partigiani, questo è rimasto, i 300 morti partigiani erano circa 120 jugoslavi. C'era un gruppo di sovietici, quindi c'erano anche gente dell'Armata Rossa, e poi c'erano 150 non identificati. Evidentemente gente che si era aggregata, no? Era andata così a combattere man mano che avanzavano le armate tedesche. Ecco, qui invece sono la cerimonia funebre appunto di questo Wirth, no? Quello che viene. E è molto interessante che la dinamica dell'attentato è identica all'attentato con cui uccisero a Praga il famoso Heydrich, no? Lui, tutti e due viaggiavano su macchine scoperte e i partigiani li aspettati un punto in cui la macchina doveva. Dove ecco questo Heydrich con Himmler e Hitler, eccetera. Quindi questo Wirth viene, come dire, sepolto lì con tutti gli onori, eccetera. Nel 1959 i tedeschi tirano fuori i cadaveri dei tedeschi gettati nelle foibe. Li tirano fuori e li portano al cimitero tedesco di Costermano, che sta sul lago. E già che c'erano, portano anche questo qua, questo Wirth. Allora, questo è un episodio che vi raccolto, verso gli anni 86-87 più o meno, a Milano arriva un console tedesco, che è un console per tutta l'Alta Italia, si chiamava Manfred Steinkühler, era un diplomatico e al tempo stesso uno storico, che aveva rapporti con dei miei amici storici. Quindi arriva a Milano, mi vuol conoscere e così via, eccetera. Dopo un paio di mesi mi telefono e dice: senti, sono andato, io devo andare ogni anno alla cerimonia in onore, diciamo, dei soldati tedeschi che si svolge in questo benedetto cimitero di Costermano. Sono andato lì, quando sono arrivato lì mi sono accorto che c'erano dei gruppi neonazisti con tanto di gagliardetti che facevano un saluto romano, eccetera. Io sono rimasto imbarazzato, dice: cos'è sta roba qua? E mi hanno detto che lì sono sepolti dei criminali dell'SS, non ho detto dei criminali, dell'SS. Vedi un po' di indagare, hanno questo nome. Allora io ho incominciato a scavare la storia e vengo a sapere chi era questo benedetto Christian Wirth. Gli dico: guarda, questo qua era uno che è stato ammazzato a Trieste. Così. Allora lui fa una richiesta ufficiale al governo italiano di rimuovere le salme di questo qua e di altri tre capocce dell'SS sepolti lì. Era ministro degli esteri Andreotti, e Andreotti dice: ok, per me va bene, portiamo via l'SS. Si scatena una campagna di stampa in Germania contro questo console. Insomma, per farla breve, lui ha dovuto dimettersi dal servizio diplomatico e questi qui sono rimasti lì. Al punto che se ogni tanto mi capita di navigare su internet, ancora oggi ci sono dei tedeschi che vanno al cimitero magari per trovare la tomba di un loro antenato, eccetera, e quando scoprono che c'è anche questo qua, mandano lettere di protesta. E c'è stata tutta un'azione di gruppi antifascisti italiani dicendo: qua bisogna portare, insomma, quella tomba di questo qua continua a sollevare polemiche. Ma questo per dirvi che si era concentrato a Trieste proprio il peggio del peggio, tanto che alcuni pensano che in realtà gli stessi tedeschi, come dire, erano contenti di farli, come dire, che questi qui venissero fatti fuori, che addirittura fossero loro aver fatto la soffiata ai partigiani perché li facessero fuori. Quindi su questo nasce tutta una serie di ipotesi che però non sono completamente, come dire, del tutto campate in aria. Questo per aggiungere complessità alla complessità, quindi per dire, con cui concludo, che il tipo di ferocia con cui si è combattuto da quelle parti, a tutti i livelli, è veramente stato altissimo, insomma. È veramente stato una violenza, ma proprio esasperata, che ha spaccato in due le famiglie, che ha spaccato in due, eccetera. Quindi, come dire, tra l'altro sulla storia delle foibe, gli sloveni sapevano benissimo che o facevano, diciamo, questi infoibamenti o deportazioni nei primi giorni, o comunque con gli americani presenti in Anglia non ci sarebbe successo niente. C'è tra l'altro questo bellissimo libro, è stato pubblicato da poco, di uno storico italiano che è andato a vedere tutti i documenti jugoslavi sulla questione di Trieste. E lì appunto ha trovato ordine di un dirigente di Cardelli, dirigente dell'esercito di Tito, che diceva: o li facciamo fuori subito nei primi giorni o poi non potremo farli fuori più. Quindi è vero, insomma, che sono state queste deportazioni, che hanno preso gente, hanno messo nelle foibe, eccetera, però sono state due fasi: nel 1943, subito dopo che è caduto Mussolini, in Istria, 400-500 circa le persone infoibate. Quelle invece subito dopo il 45, il numero più o meno sono sulle 1000 persone. Comunque non è stato un genocidio, perché la cosa, diciamo, il grande salto che ha fatto col giorno del ricordo è che quello è stato un genocidio, no? Però è chiaro che i genocidi vanno anche misurati in maniera quantitativa, voglio dire, una cosa 1000 persone, una cosa 100.000. Se c'è una qualcosa che il Tito ha fatto in maniera pesante, è stato contro gli stessi collaborazionisti sloveni. Cioè, e lì si parla, anche ne parlano, diciamo, degli storici recenti, di 60-70.000 domobranci e ustascia fatti fuori in una fase, ma lo storico sloveno triestino Pribicevic parla di 100.000 serbi cetnici fatti fuori. Quindi, diciamo, veramente la pulizia, diciamo, degli collaborazionisti più pesante è stata fatta nei confronti dei serbi, degli ustascia e dei croati e degli sloveni domobranci, insomma. Vabbè, niente, concludiamo qui. Mi sembra appunto importante sottolineare, insomma, che questa tematica della politica della memoria, della politica dell'oblio è diventata comunque una componente importante, diciamo, del pensiero politico, delle decisioni politiche, e quindi continuerà evidentemente a funzionare. L'episodio delle foibe è uno dei piccoli episodi, ma insomma nella storia europea continuerà ancora a giocare un notevole ruolo. Grazie.